E come detto, ci colleghiamo con una compagna che è in diretta con noi e che si trova in questo momento fuori al carcere di Opera. Ci racconterà insomma un po' di cose e ci faremo una chiacchierata con lei. Ciao, ci senti? Sì, ciao a tutte e a tutti. Ciao, grazie, Oggi siamo benvenute a Radio sì. Tagadà. Allora, niente, volevamo iniziare un po', oppure vabbè, se volevi dirci un po' tu, volevamo partire un po' Ma dalla situazione di Alfredo, guarda, se hai voglia. partirei subito da cose belle, che siamo qui in tantissime e davanti a questo carcere di Opera dove c'è appunto il compagno anarchico rivoluzionario Alfredo. Carcere di massima sicurezza, si vede anche per i dispositivi messi in campo, c'è un sacco di polizia, carabinieri, di tutto, ma soprattutto giornalisti, i soliti avvoltoi. Siamo qui per questa occasione, come in tante altre, a portare la nostra solidarietà ad Alfredo e a tutti i detenuti in lotta. Eravamo qui anche a marzo del 2020, proprio in questo carcere, quando dopo le rivolte i prigionieri di Opera appunto sono stati massacrati di botte e torturati. Ecco perché appunto siamo qui solidali, complici con Alfredo in lotta contro il 41 bis e il carcere ostativo, contro praticamente il carcere che è un'istituzione di isolamento, di sradicamento dalla tua area politica, ma insomma se ti ribelli. Pronto, ti abbiamo perso? Pronto? Penso che ci sono un po' di problemi tecnici, ora proviamo a richiamare la compagna, scusate. Iliad, rispondi. Allora, purtroppo ci sono dei problemi tecnici con il collegamento telefonico, con la compagna. Vabbè, ora noi magari mandiamo, un po' di musica e proviamo a ripristinare questo collegamento da Opera. Sentivamo che c'era, un po' di vento e probabilmente ci sono anche dei problemi magari di linea, prende un po' poco lì il telefono. Scusate ancora e ci sentiamo un pezzo del nostro Buon Dynamite. I'm afraid to see you anymore. Questi erano In Descendants con Clean Sheets, tratta dall'album All del 1987. Ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la compagna. Ora ci senti? Sì, sono qui. Ok, perfetto, va bene. Allora niente, come ci dicevi, ci descrivevi un po' la situazione che c'era lì al presidio di opera, quindi ci sono tanti compagni e tante compagne, un dispiegamento di forze abbastanza imponente, e anche come dicevi tu, insomma, tutta una serie di giornalisti per descrivere ciò che accade, diciamo, poi lo faranno logicamente a modo loro, a ognuno il suo, insomma. Però volevamo anche parlare un po' con te, insomma, della situazione di Alfredo, del trasferimento. Oggi è 108 giorno della fame, se hai voglia di aggiornarci un po' a riguardo. Sì, Alfredo è un compagno molto forte, ripeto, quindi farei poco, cioè il sciopero della fame da più di 100 giorni, lo sappiamo, da 3 mesi, e la sua battaglia è talmente forte, è stata talmente una scossa per tutti che siamo forti anche noi con la sua battaglia, perché è una battaglia, ripeto, contro il carcere, contro l'isolamento e contro l'oppressione. È una lotta di tutti e tutte, quindi non possiamo che essere grandi, forti anche noi, e solidali e complici con la lotta di Alfredo. Alfredo ha rotto davvero con la sua battaglia e col suo sciopero, ha davvero rotto, rompe l'isolamento del 41 bis, che è un regime molto molto afflittivo e oppressivo, è un regime di isolamento, è un regime di annientamento delle persone, e lui davvero rompe questa cosa, rompe su questa questione, tutti ne parlano, mai così tanti abbiamo parlato di 41 bis e di carcere e di ergastolo ostativo che ti mette in una tomba per sempre. Come tanti compagni sono da 40 anni con l'ergastolo e sono dentro in galera, quindi davvero la sua lotta è una lotta di tutti, è una lotta che è molto grande, siamo con lui, un grosso abbraccio anche a tutto il carcere, che ripeto, perché è un carcere davvero opprimente, lo vedi, si respira nell'aria che questo è un carcere di massima sicurezza, un carcere dove davvero tentano l'annientamento delle persone. Quindi direi che per me sostenere, appoggiare ed essere complici nella battaglia per la battaglia di Alfredo, che è contro il carcere, contro il 41 bis, un regime oppressivo, l'ho già detto, è molto importante. Oggi siamo tantissime, non si era mai visto, e quindi va bene, una spinta in avanti quella che lui ci ha dato, non possiamo che raccoglierla e fare del nostro meglio, con azioni, con riflessioni, con i confronti tra noi, ma ci vuole sicuramente un grande gruppo d'appoggio per lui, questo è indispensabile. A Milano ci si è provati, ci si sta riuscendo. Sì, poi, grazie a tutti. Ok, sì, poi volevo aggiungere che comunque i presidi sono al momento in tutta Italia, da nord a sud, veramente da Trieste, da Messina fino a Palermo. Aggiungo anche che comunque c'è la situazione della Corte Costituzionale, che al momento ancora non si è espressa riguardo la sentenza di appello, come provavano a chiedere I giudici appunto della Corte di Appello, visto che Alfredo in Cassazione è stato condannato in strage politica, il processo è stato rimandato in Corte d'Appello, ma la Corte di Appello ha rimbalzato in tutta la Corte Costituzionale. Ed in più ci sarà la Cassazione riguardo le condizioni detentive di Alfredo alla fine del 24 febbraio, era stata fissata inizialmente per aprile, poi è stata sempre anticipata gradualmente anche viste le sue condizioni fisiche. Noi allora ti salutiamo, ti ringraziamo, non ti vogliamo levare altro tempo dal presidio. Buon presidio e buona giornata di lotta a tutti voi, a tutte voi da Opera. Grazie a tutti e sempre forti e solidali contro tutte le galere. Ok, Ciao. perfetto, grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, buona giornata. Bene, noi allora torniamo in diretta, ci scusiamo per il piccolo disguido, ma siamo riusciti a recuperare, insomma, il collegamento con la compagna. Si percepiva che la situazione è veramente forte, anche l'intervento è stato molto di cuore. Ci piacciono anche così gli interventi a Radio Tagada. Ora ci sentiamo un po' di musicaccia e vai con i Cox Sparrer, dai, no?